per Mangiafuoco, raccontare la tua vita sarà un esercizio un po' originale. Non siamo abituati a guardare l'Italia con gli occhi di un uomo puro, uno che... di una piccola poesiola dei bambini tanti anni fa per i bambini. Vai, Dem. Allora, esci, brucia. Ma lui si chiamava Brusa di cognome, quindi nelle varie regioni italiane non parlo, e ne dall'alto con le elicottero ti accorgeresti di Antonia. Sì.